Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Un mese di vacanze va bene, un mese e mezzo di vacanze va bene, ma che ci sia l'obbligo a farne tre, perché altrimenti se vai un mese a fare la formazione non va bene. E questa è una discussione che questo paese la deve fare. Tagliare le vacanze estive degli studenti, l'idea ciclicamente ritorna e ciclicamente solleva una serie di polemiche. Questa volta a darle voce il ministro del lavoro Giuliano Poletti nel corso di un convegno promosso alla regione Toscana, con tanto di esempio personale. I miei figli, ha spiegato Poletti, d'estate sono sempre andati al magazzino della frutta a spostare le casse. Ecco dunque il tema del giorno. Cosa far fare l'estate ai nostri ragazzi? Qual è l'alternativa al solluchero, allo stravacco, alla richiesta di vacanza, di villeggiatura, alla birretta, alla nottata, alla vacanza? Il ministro Giuliano Poletti, che si occupa di lavoro, non si occupa di scuola, infatti già hanno posto tutti i distinguo possibili, quelli che si occupano di scuola, ha detto: ma i miei figli vanno a spostare le casse di frutta. Bella immagine romantica, antica. Immaginiamo i ragazzi del ministro Poletti quando erano ragazzi. Papà, è finita la scuola, ho preso la pagella, guarda che bei voti, vai al mercato a spostare le casse di frutta. E già tutte le cooperative dietro, che lui di questo si è preoccupato, lo mandava, sceglieva una cooperativa, quella che portava gli ananas, le frutta più indecenti, le noci di cocco, i fichi d'India con tutti i peli, con tutti gli spini sopra, perché adesso è una cosa formativa, e lì faticavano tutta l'estate. Sei il fiol del ministro Poletti, sposta la cassa di frutta, e questo ci immaginiamo. Naturalmente qualcosa di vero c'è in questo, anche se tutti i professori, i presidi hanno alzato gli scudi, siamo pazzi, una cosa folle. Grazie, in vacanza ci vanno anche loro per tre mesi, mica soltanto i ragazzi. È vero, nei piani della scuola c'è ore di formazione per continuità scuola-lavoro, però che i ragazzi l'estate facciano qualcosa mica è proprio una bruttissima idea. Io guardo il grafichetto che è uscito sul Corriere della Sera, in effetti, vedendo le aree colorate, a far tante vacanze l'estate assieme a noi ci sono soltanto i ragazzi turchi, i ragazzi rumeni, gli estoni, i lettoni, i lituani e un po' gli irlandesi e i portoghesi. I portoghesi, sa, sono portoghesi, quindi fanno i portoghesi, ma il resto del mondo ci va un po' meno in vacanza. Qual è l'alternativa? Mentre pensano negli alti livelli a come rispondere a questa battuta che lascerà il tempo che trova, non cambierà nulla e continuerà così per altri 5.000 anni, ricordiamoci un po', visto che apparteniamo a generazioni ormai segnate da vari passaggi epocali, com'era ai nostri tempi, cosa accadeva alle vacanze. Cioè, i fortunati andavano in vacanza, fine, partivano dalla seconda casa, la terza casa, si scampiavano le seconde e le terze case, quindi stavano belli tranquilli. Quelli un po' meno fortunati, o perlomeno in anni in cui ci si dava un pochino più da fare, ci si organizzava per delle vacanze massacro, che erano delle vacanze, si partiva con pochissimi soldi, si faceva l'autostop, non si mangiava niente, si passava tutte le serate a raccontarsi quello che avrebbero cucinato le madri quando si tornava a casa. Questo era, diciamo, il punto essenziale delle vacanze. Però lavoretti se ne facevano. Voi ve li ricordate i lavori che facevate durante le vostre vacanze? Ma non perché magari eravate particolarmente indigenti, o anche sì, ma non è questo il tema. Perché c'era la buona norma che un po' ci si desse da fare durante l'estate, perché le vacanze non erano poi così scontate, non era così dato per assodato che i genitori ci mantenessero per tre mesi d'estate senza far nulla. Qualcosa si faceva. Io posso elencarvi le mie, vi elenco fra un istante, intanto voi pensateci. 800240024. Perché noi accettiamo che un ragazzino stia a spasso per le strade della nostra città, tranquilli, belli come il sole, ma se decidiamo che va a fare quattro ore da una qualche parte, in un ufficio, in un'azienda, lo stiamo distruggendo? È una nuova frontiera del concetto di alternanza scuola-lavoro, già presente nel disegno di legge sulla riforma della scuola targata Renzi, ma i diretti interessati... Questo non ce ne importa nulla. Vediamo il punto: i ragazzetti vanno per le strade a far niente, potrebbero andare a lavorare. Non è capito se pagati o non pagati, se soltanto per fare un po' di esperienza di lavoro o per permettere alle aziende di avere un pochino di manodopera non specializzata, molto svogliata. Ci andranno a calci in culo naturalmente, però almeno si entrano subito nel principio, l'idea che il lavoro non è pagato, che è un principio molto assodato. Ancora alla mia veneranda età c'è qualcuno ti offre di fare delle cose, dice: però sai, non c'è budget, e le cose devi sempre farle in amicizia, in favore, perché è una grande occasione, c'è visibilità. Anna Bella, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo dire, per la mia esperienza di signora anziana. Quanto è anziana da lei? Ho 60 anni, sono una nonna. Da ragazza. No, non mi dica così, mi cascano quel che c'è ancora da cascare sotto i tacchi. Anch'io ho 60 anni, non mi sento anziano, scusi. No, no, no. E perché lei sente già vecchia? Però volevo dire. No, perché che... sente vecchia, Annabella? No, non mi sento vecchia. L'ha detto adesso, ha detto però, sono anziana. Insomma, non ho 30 anni. Vabbè, che ha un trentenne nemmeno c'ha 15 anni, scusi. È bellissima l'idea di far lavorare questi ragazzi anche senza paga, perché no, senza paga che lavoro è, scusi, che no, no. Nella loro vita gli ma mi ascolti Annabella, c'ha 60 anni, è già diventata sorda, scusi Annabella, mi ascolti, perché senza paga? Lavorare senza paga non è lavorare. Vabbè, facciamo una paghetta, sì. Un rimborso spese, una jean de poche, qualcosino non bisogna dargli, sì. E che tipo di lavoretti suggerirebbe? Quello che c'è, quello... un esempio pratico, un esempio, anche l'aiuto benzinaro in... ferma, lei ha toccato un punto dolente, poi le spiego perché. Lei cosa sarebbe disposto a offrire per un equo compenso, anche se simbolica, ai ragazzi nella sua sfera personale? Quale ma sarebbe un lavoro? Se mi venissero a tagliare tutta l'erba nel giardino, che devo farmelo io? Quanto darebbe? Quanto darebbe per un taglio ma d'erba? Caspita, io attualmente do 15 euro all'ora, ma se me lo vengono a fare per 10 euro, quanto sarei contenta. Quante ore impiega, diciamo, una pulizia a fare il mio giardino? 3 ore, ma sono 30 euro, ci esce la pizzeria la lei, sera. Ma lei ce l'ha il decespugliatore o dovrebbe farlo a mano? No, col tagliaerbe elettrico. Ah, tutto taglia. Quindi 30 euro, già vi ho trovato un lavoretto, andate a casa di Annabella, vi dà il tagliaerbe, vi mettete gli occhiali, i guanti e tutto, sì. E ci beccate 30 euro, che non è proprio da buttare via 30 sì. euro. Li butti via, 3 euro di lavoro. Perfetto, brava Annabella. Prima proposta. Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Lo sa perché Francesco... mi è pulsato il cuore quando Annabella ha detto posso fare i benzinai, perché il mio lavoretto principale in molta estate è stato fare il benzinaio. Io so cambiare l'olio, so lavare le macchine, so pulire i tergicristalli, so dare benzina, so mettere anche il metano e so mettere anche il gas GPL, perché ho fatto il benzinaio per tanto tempo. È stata la mia scuola di vita, perché ho assorbito per almeno 3-4 stagioni le chiacchiere salaci dei benzinai che stavano con me, quindi so tutto sulle signore vanno a fare benzina, come le si pulisce il vetro cercando di guardargli sotto la gonna, come si cerca di estorcere la mancia, come si intuiscono le derive amorose e adulterine, so tutto. Prego, vada al lavoro, cosa offre lei? Sa come diceva la mia nonna, impara l'arte e mettila da parte. Sì, però qualcosina in cambio la vada a cercare, quindi è tutto utile quello che si impara, specialmente da ragazzi. Lei che avrebbe da offrire, Francesco? Io dico che io ho lavorato, io ho 65 anni e sono sempre giovane, oh, a finalmente. Differenza. Bravo. Ho lavorato durante l'estate tutti i periodi. Che faceva? Aiutavo mio padre in campagna, poi andavo a preparare, c'era un'azienda che aveva le macchine da Trebbia, andavo a preparare e a fare i fili che servivano a legare le presse. E quando ancora non c'era la Mieti Trebbia, quella automatica? Sì, non c'era ancora la Mieti Trebbia. Si legava con lo spago. Le balle si legavano con lo spago, sì, quello sì, giallo. Si legavano prima col filo di ferro, io andavo a fare quello e guadagnavo una piccola cifra per il gelato, per queste cose qui. I miei figli, io ho insegnato uguale a lavorare durante l'estate. Ora sono. Ma oggi fa la rotoballa, è tutta tonda, quella lì non c'è più bisogno. Sì, ora fanno, è tutto automatico perché ci sono le matasse dei fili che automaticamente fanno tutto. E adesso che fanno loro, suoi figli, che non c'ha più il fil di ferro da preparare per fare le balle? No, i miei figli ora lavorano, ringraziando. Ma l'estate che gli faceva fare? L'estate cosa gli niente, faceva? Senta, mio figlio lavorava alla Piaggio, faceva quei lavori a 3 mesi, poi andava anche ad una gelateria a Tirrenia, qui siamo vicini gelati. Al mare, Tirrenia, andava a una gelateria a lavorare. Quindi non ve lo fate dire da Poletti, già lo sapevate voi che potevano lavorare all'estate, non c'è bisogno, lo dite certo, al ministro. Bravo bisogno. Francesco. Andrea, sua figlia che fa? No, io sono un figliolo, Monico Letti. Un figliolo, e cosa fa il suo figliolo? Un figliolo che l'anno scorso, diciamo, per l'estate, è stato a lavorare al mercato ortofrutticolo milanese. Come il figlio di Poletti, a scaricare le casse, che esatto. È classico lavoro. Allora, questo cioè, è preoccupante che il ministro del lavoro non sappia, o perlomeno non rifletta prima di parlare, e porti questo esempio. Allora vi dico la nostra esperienza, i genitori milanesi che mandano il figliolo a farsi un po' di esperienza, alzarsi presto la mattina. A che ora si inizia a scaricare le casse al mercato? Allora, il mercato finito alle 4:30 del mattino. 4:30, sì. Esatto. Poi il buon cuore del suo datore di lavoro gli ha detto: ma tu puoi anche venire verso le 6, che gli sembrava troppo esagerato. Insomma, ma le 6 che fa? Le case sono già partiti tutti i camioncini per i mercati? No, c'è tutto il giro dei supermercati. Ah, i supermercati vengono più tardi. Esatto. Allora, vi dico questo. Per fargli fare le cose in regola, il suo datore di lavoro ha voluto ovviamente scriverlo nei libretti, cose, eccetera, eccetera. Allora, mi sembra onesto, sì. Per un totale di 1,5 mesi di lavoro, noi, cioè i genitori, hanno pagato 900 erotti euro, che era il costo aziendale di questa cosa. Ma si davate al ragazzino, non era meglio, stava a casa e pigliava 900 euro. No, dov'è la tortura, perché, è chiaro. Esatto. Allora, al ragazzo sono rimasti in tasca 460 euro. Sì. Quindi su 900 erotti, 460 di netto, ok? Quindi, Poletti, prima di parlare e di proporre queste cose, dovrebbe perlomeno mettere in pista un disegno di legge che dice, ok, i ragazzi di 16 anni che vanno, voglio, che studenti, che lavorano d'estate, non so, defiscalizziamo i contributi, facciamo qualcosa. Certo, soldi in mano, e si dice si defiscalizza, come se fossero dati, è un contributo sociale in fondo, esatto, lavorano. Bravo, esatto, sì, ma, sì. Non che a rischio di un controllo. Perché se no gli danno al nero, se no naturalmente. Ha capito, chi scarica le cassette cosa fa? Prende i soldi in tasca e va via, così succede. Anche perché i suoi colleghi di lavoro erano poveri disgraziati, rumeni. Sì, tutti stranieri che si accontentavano di quello che passa. Fermo un attimo, lei ha toccato un punto dolente e anche importante. Adesso diamo la linea al traffico, però riflettiamo su una cosa, è vero. Sì, scaricano le casse, ma se deve essere un'attività etico, religioso, esistenziale, sta bene, ma dal punto di vista produttivo scaricare le casse costa più quasi alla famiglia che al ragazzo stesso. Melog, cronache meridiane. .800 24 0024, scopriamo che ciò che ha annunciato il ministro Poletti come possibile alternativa allo stravacco estivo, lui stesso ha detto che manda i figli a scaricare casse al mercato, sì, bello e suggestivo, ma praticamente non molto produttivo dal punto di vista dei ragazzi che si fanno un gran culo, ma però in realtà è poco quello che portano a casa, ma è giusto, allora bisognerebbe anticiparlo con un provvedimento che magari defiscalizza questa sorta di contributo sociale, l'avviamento dei ragazzi al lavoro, che non sia sfruttamento. Mi scrivono tanti ascoltatori durante le vacanze al tempo del liceo, mi scrive Eddie di Mirandola. Andava in giro per le campagne, angure, meloni, piselli, seguire le trebbiatrici, le barbabietole, insomma i lavoretti della campagna, laddove c'era campagna, la campagna si prestava per lavoretti di manodopera, poi sono arrivati gli immigrati e i ragazzi hanno trovato un campo abbastanza occupato e a volte anche in maniera non certo propria e proficua perché ci si impegna. Alessio, buongiorno. Buongiorno, la sua trasmissione mi ha fatto venire a mente due episodi. Allora, uno all'età di 9 o 10 anni, mio padre che ristrutturava case per risparmiare su un muratore, pagava me per portare in giro le paiole di calcina a 2000 lire all'ora. Però oggi non si potrebbe più, oggi sono regole severissime sul personale nei cantieri, se non è iper assicurato, calzato, caschettato e regolato non può solamente portare le calcine in giro per i cantieri, non si può più fare. A 16 anni invece, appena in età utile dal lavoro, regolarmente assunto per fare la stagione da cameriere. Va bene, questo mi sembra una cosa anche molto frequente. Giancarlo. Sì, anch'io più o meno la stessa esperienza, nel senso che da quando ho cominciato le superiori ai 15 anni ho sempre fatto la stagione, i 2 mesi, luglio e agosto, lavorando nei bar di una zona del Lago di Garda, e devo dire che allora tutti i ragazzi della mia età, più o meno chi lavorava al supermercato, chi lavorava al bar, facevano la stagione, nessuno stava a casa, certo era una zona che forse lo permetteva. Eravamo regolarmente assunti, quasi tutti. Ma io avevo amiche di Perugia ai tempi miei del liceo che si spostavano, andavano nei luoghi estivi a fare anche loro, facevano i letti, facevano le cameriere, erano ragazze di ottima famiglia, ma lo facevano perché le famiglie questo chiedevano a loro e loro lo facevano volentieri, non trovo nulla di disdicevole in questo. Devo dire che soprattutto il primo anno che venivo da esperienze solo di scuola, mi ha dato una bella svegliata, nel senso che ci si comincia a confrontare con il mondo vero, ecco. Mi sembra giusto, Giancarlo. Alessandra, buongiorno. Buongiorno. Senti, volevo dare solo la mia esperienza. Cioè, io ho 56 anni e a suo tempo, nel mese estivo, ho lavorato d'estate. Insomma, ho lavorato. Poi ho tre figli, uno di 32, uno di 30, che d'estate sono sempre andati a lavorare, sempre in regola. Lei cosa faceva, Alessandra, di lavoro? Io lavoravo in fabbrica, in ceramica, siccome sono nella zona di Sassuolo, si sentirà forse. Si poteva andare l'estate, diciamo, potevano i ragazzi andare soltanto a fare un periodo? Sì, sì. Non era richiesto? Una... Come apprendisti e i datori di lavoro pagavano quasi niente di contributi. Prendevano, guardi, sui allora erano 900.000 lire. Che anni erano? Allora, quello dei miei figli, le parlo di, sono uno a 32 anni, quindi ha cominciato dopo la prima superiore. Quindi negli anni delle superiori hanno sempre lavorato. Io ho lasciato sempre i soldi, si sono presi dei grandi strumenti musicali, però lavoravano due mesi e mezzo. La figlia più piccola invece ha lavorato il primo anno, poi purtroppo la crisi non abbiamo più trovato, capito? Cioè, poi sono cambiate le regole perché... Quindi secondo lei, Alessandra, vedo che sta in un'area del paese in cui questo problema non c'è mai stato. Oggi, ammesso che la battuta del ministro possa avere una ricaduta concreta, sarebbe d'accordo che occorrerebbe pensare magari un provvedimento ad hoc proprio sull'aspetto fiscale, perché non li fanno lavorare perché gli costerebbe un pacco prenderli poi no, e non possono tenerli più come una volta a far qualcosa e dargli i soldi in mano il sabato? Sicuramente, no. Sicuramente sì, ma come era una volta, le dico io, cioè i miei figli hanno lavorato come anche io, allora come apprendisti c'era un contributo bassissimo al mese, no? E quindi praticamente il datore di lavoro veniva a costare poco più della retribuzione netta. Quindi, però il problema è che c'è la crisi, c'è la gente, se non vende anche pagando niente di contributi non assume i ragazzi, capito? Quindi il vero problema è che lavorare gratis, io non sono d'accordo. No, gratis non sono d'accordo manch'io, è un controsenso, un abominio, non si lavora gratis, uno può fare del volontariato, allora dice i ragazzi vanno a rendersi utili in delle comunità, in dei posti dove sono gli anziani, i ragazzi con handicap, allora sì, è una cosa... Che se utile. Se il lavoro gratis vuol dire che quelli che anche sarebbero disposti a pagare, perché dovrebbero pagare quando c'è qualcuno disposto a lavorare per niente, o no? Assolutamente giusto. Riccardo, buongiorno. Sì, buongiorno, nei freddi complimenti per la trasmissione. Dunque, io... No, mi interessava stamattina capire la ricaduta, perché tutti hanno intervistato esperti, politici e via dicendo, ma io sono convinto che gli italiani questo problema l'avevano già da tempo risolto e se oggi c'è uno stop è perché ci sono dei problemi grossi proprio da un punto di vista concreto. Noi viviamo in un paese meraviglioso e tutti dicono cose a caso, abbia pazienza. Insomma, ho sempre lavorato, quando ero un ragazzino dall'età di 12 anni fino verso 20 anni, in estate andavo a lavorare con soddisfazione perché uno imparava. Cosa faceva Riccardo? Cosa faceva? Io facevo il barista, no, quando ho iniziato non arrivavo alle tazzine sopra la macchina del caffè, però ho imparato a rapportarmi con un datore di lavoro che non era un parente, non era un padre, quindi a responsabilizzarmi su ciò che mi veniva chiesto e su ciò che facevo. Ma come la pagavano? Cash il venerdì in mano, così? Cash, allora si poteva, oggi si rischia troppo. Allora, il problema è questo anche, tra l'altro, i miei figli vorrebbero andare a lavorare, ma nessuno ti assume, perché? Allora, i corsi, la formazione sulla sicurezza sul posto di lavoro, che per carità è importantissimo, certamente ci mancherebbe altro, durano un'infinità di tempo. Spese, quindi chi ci vorrebbe, Riccardo, uno strumento ad hoc che permetta all'estate, esatto, alcune attività, ragazzi, non tutte, esatto, di prendere, esatto, dei ragazzi con controllo, esatto, che non sia sfruttamento, con le debite garanzie dal punto di vista della sicurezza del lavoro, di poter lavorare senza entrare nel aprirsi una partita IVA, queste cose assurde. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno a lei. Sì. Volevo intervenire per raccontare che durante i lavori estivi mi lamentavo con mio padre della bassa redditività degli stessi e lui mi spiegava che ai suoi tempi era il genitore che pagava tra virgolette il datore di lavoro perché il figlio potesse imparare un mestiere. Sì, una cosa che accade ancora, il mio collega professor Chiappini, che mi manda in onda in questo momento, quando era ragazzino la madre lo mandava in negozio di hi-fi, lui era appassionato già da allora di alta fedeltà e di attrezzi per la riproduzione del suono, però la madre dava 10.000 lire al datore di lavoro perché lo tenesse fuori di casa tutta la settimana, quindi c'era questa cosa. Però così non funziona, non basta pagare la scuola di guida, se lavoro, deve essere retribuito, deve essere fatto se possibile, la persona non di famiglia, se no rientriamo in delle vicende già troppo note alla cronaca di questi ultimi giorni. A domani.